cui per ora è inutile soffermarsi, sono comparsi in questo quadro di vita parigina, ma noi non ne accenneremo che casualmente a questi personaggi, perché quello che ci sta a cuore è la storia centrale, naturalmente. E parleremo di questi personaggi solo nella misura in cui si inseriranno nella storia. Il che non significa che voi non dobbiate sapere par cœur, by heart, quello che riguarda i personaggi. È chiaro il punto. Sono personaggi che fanno parte di questo sfondo gaio e melanconico della vita di un giovane. Mi permetterei di ricordarvi ancora una volta che Histoire d'un jeune homme è il sottotitolo dell'éducation sentimentale e questo è molto importante, molto più di quello che normalmente si pensi, si ritenga, questo fatto che è la storia di un giovanotto, non di un uomo. E aggiungerei una finezza per le anime fini, quali voi avete, possedete e siete, che il disfarsi della giovinezza e della maturità, e questa è una delle bellezze meno annotate, sinceramente, probabilmente Enrico Guaranto è per primo lui che l'annota, ma sinceramente non sto scherzando, di questo romanzo, è che non è la vita di un uomo che quindi tramonta con la vecchiaia e la morte. È la vita di un giovane che tramonta. Questo pensiero bellissimo non avrei immaginato di potervelo dire oggi che ho problemi di stanchezza notevoli. È un giovane che tramonta, capite? Spero che apprezziate questo pensiero. Qui c'è una ragazza che è chiaramente una mia fan e quindi glielo chiedo se lo apprezza. Bellissimo. Un giovane che tra... Ho bisogno di avere dei sostenitori, dei supporters. Questo fatto che tramonti un giovane è diverso dal fatto che tramonti un uomo adulto, perché il tramonto di un uomo adulto fa parte dell'ordine delle cose, no? Quando è che tramonta un giovane? Questa è una cosa che mi sta venendo in mente in questo momento. Quando diventa uomo? Ecco perché il titolo è, in questo libro mirabile, Storie di un giovanotto. Storie di un giovanotto, d'un jeune homme. E quando si è giovani, tante persone contano. Quando non si è più giovani, contano pochissime persone. Una delle caratteristiche, mi è venuto in mente in questo istante mentre vi sto parlando, della differenza tra la maturità e l'età giovane, è proprio questo. Avevo delle allieve che avevano sulle loro agendine tantissimi nomi, maschi, specialmente se carine, e maschi anche che avevano tantissimi. Ne ricordo una, oggi la lezione è un po' strana, è diversa, ma spero che non vi dispiaccia troppo. Una che è stata assassinata e che tutti conoscete, il delitto di Simonetta Cesaroni. Vi ricordate? Il delitto che è avvenuto 20 anni fa. Ecco. Aveva 300 nomi sulla sua agendina. Io ho 5-6 nomi, ma in realtà so che voi avete molti nomi, ma ne avete sempre di meno, perché la vita diventa selettiva, importano soltanto alcune persone. Siccome questo è un giovane, sulla sua ideale agenda ci sono moltissime persone, e questo è un piccolo segreto che vorrei espormi dell'educazione sentimentale. Perché tanta gente? Perché nella vita di un giovane ci sono molte persone. E poi man mano le persone diventano sempre di meno, contano che cosa? Contano i figli, contano gli amanti, e nemmeno tutti. Sì, la cosa terribile è questa, nemmeno tutti. persone con cui si sia stati insieme o contro l'ha fatto tutti, no? Quindi questo elenco di persone che si aggiungono al plot centrale, noi le considereremo solo, come dire, vi spiego quando capiterà di considerarli, vi dirò chi sono. Questa è la prima osservazione che vorrei farvi. La seconda osservazione è questa. Questa è un'osservazione strana che non avevo previsto di farvi, ma oggi è una giornata un po' particolare. La seconda osservazione è questa. C'è qualcosa che può disturbare un lettore moderno di Flaubert. Questo qualcosa che può disturbarlo è la angosciante cadenza dei periodi, perfetti, mirabili, che si concludono tutti, si concludono spesso con una frase apparentemente staccata dal contesto, che inizia con la congiunzione copulativa e, come per indicare che rispetto alla scena che viene descritta nel passo, questo e è una sorta di conclusione. Mi viene in mente, sapete cosa mi viene in mente? Mi viene in mente la predella di un politico, mi viene in mente una scritta conclusiva, capite? Tutto questo è bello e al tempo stesso questa scrittura così perfetta, che ha sempre questa sorta di chiusura, spesso ha questa sorta di chiusura, è anche vagamente soffocante. Ma questo è il fascino di Flaubert, cioè avere fatto questi periodi perfetti con un bisogno di occupare il mondo, per così dire. Come ravviva questa struttura sintattica? Come la ravviva? La ravviva in un modo mirabile, bellissimo. Che direi così, perché poi la letteratura non ha degli strumenti verbali più di tanto per andare al centro di quel che vuol dire. Ravviva questa struttura cercando l'anima, non trovando l'anima, ma cercando l'anima. Quando dico cercando l'anima, dico un concetto molto difficile, perché voi potreste dirmi, ma perché non trova l'anima? Perché l'anima è un po' al di là. L'anima nei pensieri, negli amori, nei sentimenti, è sempre un po' al di là per lui. Ricordatevi questa osservazione che vi faccio adesso, e che ci consente di dire che il mondo di Flaubert è un mondo non pieno, ma un mondo, come molti hanno pensato in passato, ma un mondo scavato, vuoto, con dei vuoti che lo rendono però mobile. Di questa osservazione vi renderete conto successivamente. Ma non è un mondo pieno, questo è il punto. Il paragrafo che ora dobbiamo considerare, siccome mi avete detto che è minuto 7, quindi cerchiamo il mio 8, eccolo qui, benissimo. Allora, guardate qual è questo paragrafo, adesso lo faccio trovare lì. Guardate il 7, avete il 7 davanti, adesso vi dico io. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. è il capoverso che inizia con il été assis trois places au-dessous d'elle. 66, bravissimo. Vedete, il primo che arriva a dire qual è la pagina del vostro testo può idealmente, e io dico di sì, come un gioco, segnatevi una crocetta, perché avrà poi all'esame un piccolo favore personale. Quindi vedete una crocetta, guarda, faccia così, la crocetta poi porta male. Metta un cuoricino, se vuole trafitto. Allora, noi consideriamo in modo ontologico questo libro mirabile, per forza, per ovvi motivi, e qui siamo a una cena a casa di Madame Arnaud e di Monsieur Arnaud. Avete capito che lui è innamorato quindi di Madame Arnaud, che Arnaud è un personaggio losco, è una delle più grandi invenzioni della letteratura, un personaggio losco, sostanzialmente non un farabutto, ma insomma una persona di livello morale degradato sostanzialmente tanto quanto la moglie di livello sociale alto. E da qualcosa, la moglie è assolutamente consapevole, però la moglie è una donna per bene e quindi non può abbandonare il marito, però pian piano si rende conto di cosa è il marito, di quale sia la grossa grana morale della sua persona. Mi seguite bene? Siamo qui in una situazione assolutamente normale e borghese, cioè siamo in un pranzo, è il primo pranzo a casa Arnaud. Ve lo traduco direttamente. Il était assis trois places, era seduto a tre posti dietro, insomma, vicino a lei, ma tre posti di distanza, dalla stessa parte. Di tanto in tanto, sto cercando un po' di luce, di tanto in tanto lei si chinava un po' volgendo la testa per rivolgere qualche parola alla sua bambina. E poiché quando sorrideva, mentre sorrideva, una fossetta si scavava nella sua gola, il che dava al suo viso un'aria di bontà più delicata. Al momento dei liquori scomparve. La conversazione divenne molto libera. Monsieur Arnaud vi brillò e Frédéric, mi fermo un momentino per dirvi questo, c'è questo grande tema flaubertiano della volgarità maschile di fronte alla finezza femminile. L'uomo è volgare sostanzialmente. E anzi, questa osservazione mi pare molto bella da fare, perché a me gli occhi, ragazzi, perché c'è, sebbene non ne abbia mai fatto pratica, se non così, occasionalmente in Egitto, c'è una sorta di... c'è una sessualità molto complicata, diciamo così. E gli uomini gli sembrano ronzi, ecco perché appaiono tutti malmessi nei suoi romanzi, salvo uno, salvo un perdente, due direi, o uno soprattutto, che è il Madame Bovary, il protagonista, Charles Bovary. Però è stupido, capite? Come dire, riscatta la sua mascolinità, il suo sesso maschile, essendo però stupido. Allora, al momento dei liquori lei scomparve. La conversazione divenne assai libera. Monsieur Arnaud mi brillò e Frédéric fu stupito del cinismo di quegli uomini. Tuttavia, la loro preoccupazione della donna stabiliva fra loro e lui come un'eguaglianza che lo rialzava nella stima di se stesso. Rientrato nel salotto, prese, per darsi un contegno, uno degli album che rimanevano lì sul tavolo. I grandi artisti dell'epoca l'avevano illustrato con disegni li avevano messo prosa, versi oppure semplicemente le loro firme. Tra i nomi famosi se ne trovavano molti sconosciuti e i pensieri curiosi non apparivano che sotto un profluvio di sciocchezze. Sapete quei libri che si trovano in certe case in cui ognuno degli ospiti lascia il pensiero, no? Per in omaggio alla padrona di casa. Tutti contenevano un omaggio più o meno diretto a Madame Arnault. Frédéric avrebbe paura di scrivere una sola riga lì a fianco. Ella andò a cercare nel suo boudoir il cofanetto con fermagli d'argento che lui aveva notato sul caminetto. Era un regalo di suo marito, un'opera del Rinascimento. Gli amici di Arnoux le fecero dei complimenti e la moglie lo ringraziava. E lui fu preso da un intenerimento e le diede davanti a tutti un bacio. E poi tutti discussero di questo e di quello a gruppi, conversavano di questo e di quello a gruppi. Quel brav'uomo di Mencius era con Madame Arnoux su una bergère vicino al fuoco. E lei si chinava verso il suo orecchio e le teste si toccavano. E Frédéric avrebbe accettato di essere sordo, malato e brutto per un nome illustre e dei capelli bianchi. E infine per aver qualcosa che lo introducesse in un'intimità simile. Si rodeva il cuore, furioso contro la propria giovinezza. Vediamo questa pagina. Quando noi siamo innamorati di qualcuno, una delle cose che notiamo di più sono le vicinanze della persona di cui siamo innamorati a un'altra persona. Anche le vicinanze più innocenti. Non diciamo se la donna è vicina a un uomo che noi sentiamo come rivale, ma anche vicino alla sua stessa bambina, perché quello che vuole l'innamorato è una cosa trascendentalmente semplice, senza nome. È stare vicino. Quindi, quando lei si china verso la sua bambina a tavola, questo è un momento delicato e magico, meraviglioso, invidiabile. E allora lei sorride con una fossetta. La fossetta in una guancia di una persona giovane è una cosa veramente molto bella. Naturalmente la fossetta fa pensare, ma certamente non ci avrebbe pensato Frédéric, ad altre fossette del corpo femminile che sono molto belle, ma spesso la sessualità arriva in noi attraverso metafore. Cioè noi non ci rendiamo conto esattamente delle cose che desideriamo, perché la nostra coscienza, quello che si chiamerebbe superio, la convenienza, ci impedisce di farlo. Ma questa fossetta, badate, una fossetta, noi sappiamo molto bene che il corpo, nella fattispecie, il corpo femminile, ha delle fossette. E ogni amante ha pensato alle fossette che sono davanti, in basso, dietro, e ci ha pensato con trepidazione. Tanto più inconfessabile quanto più la persona era socialmente inaccessibile. E certamente lei, Madame Arnoux, altro che inaccessibile a lui. E poi vede questo viso che ha un'aria di bontà. Io vi consiglierei di sottolineare, di sublinhare le cose che io vi dico, nel testo, così poi ve le ricordate meglio per studiare. Questa cosa della volontà è una cosa molto importante. Quando uno ama una donna o si innamora di una donna, non è la bontà a cui mira. Anzi, la bontà può essere qualcosa di raggelante. Se uno mira la bontà è perché ha una sorta di paura di entrare in contatto con l'anima femminile. Ma Friedrich, cioè Flaubert, non poteva altro che avere questa bontà proprio per essere, come dire, rassicurato nel poter entrare nell'intimità di lei. E quindi il fatto che lei sia buona, ricordatelo, questo è un punto centrale nell'educazione sentimentale, è un punto essenziale. Molti amano delle donne cattive, a non dire che molte donne amano degli uomini che sono cattivi, perché hanno per esempio delle capacità sessuali straordinarie o erotiche. No, Flaubert presenta invece la bontà come un elemento fondamentale pour s'introduire, Pierre Mallarmé, dans son histoire, cioè per entrare nella storia di una persona, questa deve essere buona. Deve essere buona. Sono a tavola. Sono a tavola. Lui, naturalmente, guardate la finezza. Flaubert diceva una cosa molto importante, che le bellezze dell'educazione sentimentale, che lui riteneva di gran lunga il suo capolavoro, evidentemente, erano visibili solo a distanza di anni. È probabilmente vero, sono certamente meno clamorosi di quelle della Bovary. E allora, allora c'è una scena tipica del tempo. Al momento dei liquori le donne si assentano. Perché a questo punto la conversazione fra i maschi diventa più spigliata, più spregiudicata, non conveniente alle signore. E lei, lui, e Friedrich, ecco, questo fatto che abbia fatto un lapsus in questo momento è molto significativo. Avete sentito che ho detto lei? Perché Friedrich è una figura maschile complessa. Colgo l'occasione di questo piccolo sbaglio per dirvi che è una figura maschile complessa in cui la mascolinità scivola verso la femminilità. Fa cose che un uomo farebbe con molta difficoltà e che una donna farebbe. In altri termini, attenzione che questo piccolo errore che ho fatto è veramente utile. Friedrich è tutto, per usare una parola che fa parte del linguaggio comune, vostro, è tutto fuorché un macio. È un uomo gentile. Gentile, ma starei per dire non per bontà. Gentile per una sorta di profondo opportunismo, perché essendo gentile riesce ad avanzare meglio nel mondo. Non è una figura di animo nobile. E questa mi sembra una grandissima idea, di far sì che il protagonista non sia un uomo di animo nobile. È uno che è gentile perché ha degli aspetti non perfettamente determinati in senso maschile aggressivo. Si trova dunque a tavola e Friedrich fu colpito dal cinismo della conversazione degli altri uomini. Notate, come se lui non fosse un uomo. Come se non fosse un uomo. E la loro preoccupazione della donna stabiliva tra lui come una specie di eguaglianza. Benissimo, l'abbiamo detto. Cosa fa a questo punto? Fa un piccolo gesto che affida la vostra sensibilità estetica, perché capiate, piccolo gesto che nessun critico, devo dire, ha messo in evidenza, lo posso dire in questo momento con soddisfazione. Se ne va, perché con quegli omaggi non ci vuol stare. e va in un'altra sala, non vuol partecipare in questo clima sacrale, vicino a Madame Arnoux, a una conversazione che la possa degradare, capite? E va a vedere come si usa nelle case borghesi l'album, perché in tutte le case borghesi si usava di avere un album con fotografie, eccetera, eccetera. E c'erano dediche. Io recentemente sono stato, la settimana scorsa, a Chiare. Una giovane signora ha invitato me e mia figlia, e la prima cosa che ci ha fatto vedere era l'album degli ospiti, no? Una cosa di questo genere qua. Ognuno degli ospiti aveva fatto una gentile dedica alla signora in questione. Ecco, mi hanno chiesto anche, mi pareva che mi chiedessero anche a me di fare una dedica gentile, ma insomma, mi è sembrato un po' imbarazzante, ho detto quasi che non sapevo scrivere, insomma, ho inventato qualche cosa, mi dava un pochino di fastidio di mettere una dedica. Bellissima signora, fra le altre cose. Sta dunque qui, guardando. E a un certo punto fa qualcosa di così squisitamente borghese che se voi non amaste la letteratura basterebbe questo a farvela amare. Fa vedere i doni di casa, le cose belle di casa. Un cofanetto d'argento. Questo cofanetto d'argento, se non perdo il segno, era un regalo del marito. Sono le signore di un tempo che non solo non parlano male del marito pubblicamente, no? Ma anzi mostrano le bellezze del marito. Quando ero un giovane professore, fra l'altro ero sposato, avevo una ragazza, la cosa spero non ti turbi troppo. Ricordo perfettamente la paura di questa ragazza di lasciarsi scoprire nei suoi segreti. Poi ho incontrato, è una piccola storia flaubertiana che mi racconto, ho incontrato questa persona 23 anni dopo. Siamo visti dopo 23 anni, era stata una mia dieta. E lei mi parlava del marito, come era ovvio, come era evidente, e cercava di illustrarmi le qualità positive del marito. E io mi sono reso conto che quando una donna comincia a illustrarti allora le qualità positive del suo compagno, il barometro è basso, perché se sono veramente positive non te le illustra, le illustra per convincere se stessa, e quindi è per convincere se stessa che lei fa vedere questo cofanetto, e lui che è stupido, perché attenzione, questo è un punto fondamentale per Flaubert, i maschi sono stupidi. Questo è un punto essenziale. Il marito non capisce nulla della psicologia di questa donna che ostenta un dono del marito per far vedere che ama il marito. Sentite quanta finezza c'è in tutto questo. E allora si intenerisce, perché in certi uomini rozzi la tenerezza sostituisce l'amore e si inteneriscono improvvisamente. Quando vedono qualcosa che li riguardi, rimangono completamente ciechi di fronte al fatto che non c'è una comunicazione, per cui quando si arriva eventualmente alla separazione, alla frattura, sono stupiti perché la moglie si è mostrata fino al giorno prima così gentile e non hanno capito che questa gentilezza era stata costruita dolorosamente e faticosamente per non vedere lei, la moglie, quali fossero gli orribili peccati di indelicatezza del marito. E quindi, di fronte a questo fatto, lui bacia, dà davanti a tutti un bacio alla moglie. c'è un vecchietto che parla con Balamardù. Nella vita di un uomo il problema dell'età quando si è giovani è molto importante, perché quando si è giovani si è inesperti. Io non so se a voi sia accaduto con i ragazzi, ma di conteggiare una persona, forse vi sarà accaduto, e vedevate che un altro uomo assai più grande di voi, più esperto di voi, aveva dei consensi da parte della donna che conteggiavate e voi morivate di invidia, di rabbia, ed eravate come impediti dalla vostra stessa collera. E d'altra parte bisognava riconoscere che quello era assai più esperto, più capace. Questa è un'esperienza che credo ogni maschio abbia fatto. Così adesso Frédéric vorrebbe essere quel vecchietto, perché quel vecchietto riceve questo immane dono, che è il fatto che lei si chini verso il suo orecchio. Che cos'è l'amore? L'amore, scrivetelo questo a capo del letto, come le mie massime che di tanto in tanto vi dico, è quando la persona sconosciuta che tu ami si china verso di te. È questo l'amore. Avrebbe dato Frédéric tutto pur di avere quella confidenza da parte di Madame Arnaud. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra piccola cosa. Voltate tre pagine, oltre il capitolo 5. Aspettate se questo... Ecco, sì. Vedete il capoverso che inizia «Elle fut charmante, grâce à la beauté», dopo il capitolo 5. «Elle fut charmante, grâce à la beauté». 72. Segnatevi con la crocetta il primo che lo dice, perché poi lo fate valere. I titoli, certo, è la ragione, perché io qui non lo leggo però. L'ottavo. Dunque, questo qui adesso lo vediamo l'altro. Adesso sto leggendo questo in maniche di camicia. Questo è in maniche di camicia. Poi l'altro lo vediamo. Quando riuscirò a leggere, ho detto fine la mattina, con questa luce non si vede. Cambiamo argomento. E quantomeno accendiamo a questo argomento nuovo. Cosa fanno due amici? Perché questo tema dell'amicizia maschile non è meno significativo dell'amore, in quanto quando si è giovani, quando si è alla vostra età per intenderci, l'amore è certamente il discorso centrale, ma per un maschio l'amicizia è importantissima. Lui e Delorier, Frédéric e Delorier, si trovano insieme e questo soggiorno, dice Flaubert, fra lui e l'amico Delorier, dice elle fut charmante. Va bene, ci siamo? Qual è il capoverso che avevo indicato? Adesso e questo qui non avevo indicato. Ah, benissimo. Allora, fu bello questo soggiorno grazie alla bellezza della loro giovinezza. Delorier, non avendo parlato di alcuna convenzione, è fantastica questa cosa, la volgarità maschile. Allora, se due si mettono insieme, che cosa fanno? Spartiscono le spese. Due donne spartiscono le spese, ma in questo suo atteggiamento di disprezzo verso la rudezza maschile, Delorier è un coglione, anzi non è un coglione, tutt'altro che un coglione. Delorier è uno stronzo, e qui soltanto la parolaccia riesce, perché cosa fa? Fa sì che l'altro, siccome è generoso, faccia tutto lui, paghi lui. E quindi Delorier, non avendo parlato di alcuna convenzione pecuniaria, Frédéric non ne parlò. E lui sovveniva a tutte le spese, metteva a posto l'armadio e si occupava del menage. Ma se occorreva dare una farma paternale al portinaio, era Delorier Leclerc che se ne incaricava, continuando come al collegio il suo ruolo di protettore e di anziano. Ricordate che Delorier ha 3 anni più di lui. Separati tutto il giorno, si ritrovavano la sera, lui e l'amico Delorier. Charles si sedeva vicino al... Ognuno, scusate, ho detto Charles. Ognuno si sedeva vicino al fuoco e si metteva all'opera. Non tardavano a interromperla. Era una di quegli effusioni senza fine, di allegrie senza motivo, quelli che in francese si chiamano fou rire, cioè quando tra ragazzi, e voi ne siete continuamente attori e testimoni, vengono quegli scoppi di risa che non si riescono assolutamente a contenere. Quando sei a scuola e trovi il professore che dice: "Lei che cosa ride a fare?" Naturalmente te ne viene molto di più la risa, evidentemente. Ecco. Erano degli épanchements, erano dei riversamenti del cuore senza fine, delle gaiezze senza causa e delle discussioni a proposito di qualsiasi cosa, della lampada che colava o di un libro perduto, collere di un minuto che delle risa calmava la porta dello stanzino per il legno che stava aperta e loro chiacchieravano da lontani nel loro letto. Il mattino, questo è un punto di assoluta bellezza. Chi lo capisce? Chi lo capisce? Il mattino passeggiavano in maniche di camicia sulla terrazza, il sole si alzava, brume leggere passavano sul fiume, si sentiva uno sciagottio non sciagottio, un rumore, un brusio nel mercato dei fiori a fianco, e i fumi delle loro pipe turbinavano nell'aria pura che rinfrescava i loro occhi ancora gonfi, e sentivano, aspirando questo profumo di aria, una vasta speranza espansa. La vita è fatta di sensazioni, tutta la vita. Senza sensazioni i sentimenti non sarebbero percepibili. L'amore ti provoca delle sensazioni. Quando si è ragazzi, quando si è alla vostra età, è una cosa bellissima stare con il proprio amico. C'è un verbo, che qui Flaubert non usa per ovvi motivi, uno perché non era italiano, e due perché non aveva la fortuna forse di conoscere un verbo analogo al nostro. C'è una cosa che voi ragazzi fate, non solo voi ragazzi fate, che è il verbo prezioso, mirabile da custodire tra le gemme della nostra lingua dialettale moderna, che è il verbo cazzeggiare. Io credo che tutti sappiate che cosa vuol dire. Ne offre spettacolo di inesauribile bellezza il bar qui davanti. È un cazzeggio metafisico. Cazzeggiare vuol dire parlare di nulla. C'è qualcuno che non sappia il significato del verbo, che non lo sa cosa vuol dire. Sa cosa vuol dire cazzeggiare? È parlare di niente. E quando si sta insieme al proprio amico, si parla di niente anche quando uno già è a letto, e quindi i due, che hanno due letti separati dalla legnaia, sembra, si parlano da una stanza all'altra. Voi stessi, vi sarà accaduto quando eravate con qualche vostro amico, di parlarvi fino al cuore della notte, no? Questo è lo splendore della giovinezza che viene rievocato da Flaubert. E poi, alla mattina, escono. E qui il rubino, lo smeraldo, è che escono sul terrazzo con maniche di camicia. Sentite come fa a sentire come fa a far sentire la giovinezza. Escono, siamo a Parigi, in maniche di camicia nell'aria autunnale o invernale, fumando. E lì sentono un brusio del mercato dei fiori. Sentite come, mettendo insieme la nebbia, il mercato dei fiori. I ragazzi in maniche di camicia, ma quel maniche di camicia vale oro. Sentite la giovinezza e anche la solidarietà calorosa, affettuosa che si può creare nella giovinezza. Fermiamoci qui.